Perché c'ho paura proprio a livello fisico, non è che c'ho paura di morire. Io c'ho tutti i denti rovinati perché c'ho paura del dentista, quindi questo è un fatto mio. Però noi in questa situazione avremo una regressione. Pari. Ah, poi sempre questo, poi la storia. L'altro giorno abbiamo parlato di corsi e ricorsi storici. Corsi e ricorsi storici. Allora, 6.000 anni fa, questo può fare un bel paragone, quella gente ti può anche piacere. 6.000 anni fa, alla fine dell'ultima glaciazione, siamo nel Neolitico, il momento che l'uomo usa la pietra, che l'uomo è costretto a vivere nelle grotte, nelle caverne, perché là fuori ci stanno ghiacci. E vive, in quel momento l'uomo è cacciatore, raccoglitore. Praticamente il giorno esce, cerca di acchiappare la lepre o di portare a casa i fichi, le mele, le pere che trovava. Cacciatore, raccoglitore. Ma quando è finita l'ultima glaciazione, da cacciatore a raccoglitore, ed era nomade, è diventato stanziale, perché è diventato agricoltore, allevatore, quello che siamo noi attualmente, siamo agricoltore, allevatore. Ma quando adesso avremo un regresso, perché torneremo a essere cacciatori, raccoglitori, perché purtroppo sarà questo il regresso, ma non a livello degli uomini preistorici, ma ci sarà un grande regresso. Ma succede che il Neolitico, quando usciva, capace una lepre la prendeva, e aveva anche magari centinaia di anni di esperienza a tirare frecce. Ma adesso noi siamo talmente tanti, con esperienze che non abbiamo più, da chi con la lepre? Certo, no, ma noi non siamo più in grado assolutamente di... Ma non sarà neanche sufficiente a raccogliere fibre, perché non ci sarà per tutti. Certo. Ma la stessa storia, paragonata, che la storia si ripete sempre, si è sempre ripetuta. Quando il Neolitico usciva per andare a caccia, doveva cacciare qualcosa per mangiare ed evitare di essere mangiato, perché stavano i lupi, gli orsi, come gli avvè, qui c'è il problema, cioè cercare di prendere qualcosa per far mangiare il suo gruppo e cercare di non essere mangiato. Ma la stessa storia, lui andava a trovare il cibo con l'arco e freccia, ma noi adesso allo stesso livello, non più con l'arco e freccia, andiamo a cercare il cibo nei centri commerciali. Tra poco se ne troverà sempre di meno, quindi lo andremo a cacciare, anche se non con le frecce, con i soldi, lo andiamo a cercare il cibo per mangiare, cercando di non essere mangiati. Ma mentre a loro si li mangiava il lupo, a noi ci può mangiare un microorganismo che si chiama coronavirus. Immagina come cazzo abbiamo portato il mondo e come speriamo di poterlo salvare.